Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Igino Straffi, 51 anni, marchigiano, sposato con una figlia, fondatore e presidente del gruppo Rainbow, il più grande studio di animazione d'Europa, padre delle Winx, le sei fatine più famose di Spider-Man che hanno conquistato le bambine di tutto il mondo. Maturità scientifica, studi in lingue, disegnatore di fumetti, autodidatta. A 24 anni lavora per Sergio Bonelli, che gli affida le sorti di Nick Ryder, uno dei personaggi di punta della casa editrice. Ma il disegno non gli basta. Per 5 anni fa il giro del mondo, Francia, Olanda, Stati Uniti, Far East, lavora e studia il cinema d'animazione. Nel 94 torna in Italia insieme all'editore Don Lamberto Pigini, fonda la Rainbow. In poco più di 10 anni la Rainbow diventa una vera e propria industria dell'intrattenimento con un giro d'affari di oltre 1 miliardo di euro. Ama Paolo Conte ed Andrei Montisibillini, dove è cresciuto da piccolo sognava di diventare Zorro o Tarzan. Ma da grande farà il gelato. Allora, Gino Straffi, oggi è diventato più Zorro o più Tarzan? Probabilmente più Zorro, tra perché? I due. Perché? Ma perché sicuramente punto di più sull'abilità e... che sulla forza fisica. Senta, tanti invece la considerano né Zorro né Tarzan, ma il Walt Disney italiano. Le piace essere paragonato a Walt Disney? Sicuramente un onore. Ma che cosa aveva Disney più di lei? Beh, intanto probabilmente qualche capacità in più, poi a parte la verità, non è sì. Anche un mondo, un paese dove l'ispirazione era più... Ma c'erano anche più possibilità, perché certo. Chiaramente c'era tutto da fare, era tutto in piena espansione. Senta, lei ha detto che le Winx sono il cortocircuito tra il calcolo e l'ispirazione artistica. Marketing più fantasia, insomma. Esattamente. Quindi lei, quando ha creato le sue fatine magiche, come le ha pensate? Le ho pensate anche perché mancava in quel momento un'eroina al femminile, ecco, qualcosa che facesse sognare le bambine. E infatti le Winx nascono nel 2004 in un contesto storico nel quale i fumetti che piacevano ai bambini quali erano? Tutti al maschile praticamente. Sì, Pokémon, Digimon, Dragon Ball, tutti per i maschietti. E lei a chi si è ispirato per disegnare le Winx? Io mi sono ispirato un po' delle attrici e cantanti famose dell'epoca, però sicuramente volevo fare un mix tra il cartone giapponese con queste eroine che si trasformavano, eccetera, e il cartone occidentale, appunto. Ma ci voleva un prete come socio per pensare un fumetto al femminile, eh? No, assolutamente, il prete socio non c'entra niente, anzi lui forse l'ha scoperto che stavamo facendo questo nuovo... Ah, l'ha scoperto dopo? Dopo, sì, quando quasi era finito. Era contento, no? Ma sì, diciamo che era contento, poi però voleva sapere se c'erano i contenuti, insomma, educativi. Ma com'è andato l'incontro col suo socio prete? Bene o male? È andato bene, perché lui ha creduto sempre, insomma, nelle mie capacità, e io spero di averlo ripagato, insomma, con qualche risultato. Senta, però ho letto che a parte le attrici, le cantanti di cui parla, le Winx in realtà sono tutte Elisabetta Straffi, cioè sua sorella maggiore, è vero? Ma non l'ho mai detto questo. No, però infatti, è vero o no? Ma più che altro io ho detto che mi sono ispirato a delle amiche, mia moglie anche. Sua sorella niente? Ma anche mia sorella, cioè sicuramente in alcune testarde magari c'è anche la sua... Ma non è rimasta lei la fata bruna per lei? No, l'ha fatta Bruno, no, anzi amiche dell'università, oppure come ripeto, mia moglie effettivamente... Che è cinese. Ci ho preso molto da lei, sì. Che è cinese, no? Sì, sì. Senta, lei parla cinese? Assolutamente no. Va bene. Senta, oggi le Winx sono diventate un fenomeno globale. Ha firmato accordo con un'emittente cinese per trasmettere la serie in mandarino, oltre che un parco divertimenti a sud di Shanghai, e saranno anche su Netflix. Ecco, Straffi, ma qual è il segreto del successo globale delle Winx? Credo che siano dei personaggi molto originali e tutti molto diversi da loro, quindi creano un'immedesimazione in tipi diversi di bambine che amano quella più sportiva piuttosto che quella più romantica. O quella... Cioè la differenza di carattere, ma messe insieme, esatto. Fanno, come dire, il mondo. Esatto. Ma ci sono paesi in cui non sono andate bene le Winx? Andranno bene dove non è andato bene fino adesso. Sì, troveremo la strada per farle entrare sicuramente. Senta, lei ha detto che le Winx non sono di sinistra, se per sinistra si intende da lei, ma cosa vuol dire? No, io casomai ho detto non sono di sinistra perché non c'entrano niente con la politica. Poi chiaramente magari qualcuno ha fatto riferimento a D'Alema, perché alcuni comportamenti di D'Alema negli ultimi anni non mi sono molto piaciuti. Ma lei, no, le Winx sono più renziane che dalemiane? No, le Winx, ripeto, proprio sono apolitiche, grazie a Dio, perché poi riguardano tutto un mondo fantastico e un mondo universale di valori che dovrebbe appartenere a tutti i partiti. Tutti. Senta, le piace Renzi o no? Ma sicuramente, insomma... Le piace ancora, simpatia. Insomma? Ma io ancora direi proprio di sì, perché tra l'altro sono sempre molto portato a avere ancora più simpatia per chi è in difficoltà, perché quando uno è forte piace è facile. A tutti, è facile. Invece esatto. Adesso... Se mi fa una telefonata e vuole un consiglio, una cosa, mi fa ancora più piacere di prima. Ecco. Da giovane le piaceva Pannella, poi ha detto è diventato tutto più difficile. Che cosa è diventato più difficile? Ma vabbè, diventa più difficile tutto il lavoro, vivere in questo mondo è diventato più difficile. Però Pannella, diciamo, ecco, ha un grande fascino per i valori, quello che voleva, per cui combatteva, no? Quello che rappresentava. Chiaramente poi crescendo uno si rende conto che magari ecco, non è che può governare effettivamente un paese Pannella, però sono personaggi che devono esserci. Certo, democrazia. Perché seminano. Certo. Seminano. Le sue Winx hanno compiuto 12 anni, l'abbiamo detto, e firmano contratti milionari dappertutto. Ecco, ma come è riuscito a non farsi rottamare le Winx in clima di rottamazione? Perché noi le rinnoviamo continuamente, non ci sediamo sugli allori, e la prima serie è diversissima dall'ottava che stiamo scrivendo adesso. Però c'è chi ha detto che si vede che sono un po' vecchiette dall'esibizione dell'ombelico che andava di moda 10 anni fa. Se dovesse ridisegnarle adesso, come le farebbe? Sempre con l'ombelico di fuori? Ma quello forse è un problema delle repliche che fa costantemente la Rai, perché continua a mandare il magazzino. Noi abbiamo già cambiato look dal tempo e gli ombelichi scoperti appartenevano alla prima serie di 12 anni fa. E le danno fastidio le repliche? No, perché la prima serie ha una storia e dei contenuti che forse non siamo nemmeno riusciti a replicare con le successive, molto forti. Lei ha detto, noi della Rainbow crediamo nel marketing totale, si parte da storie, personaggi, ma tutto il resto serve per amplificare il fenomeno. Mm-hmm. Ecco, Straffi, quanto vale il fenomeno Winx Club? Vale tantissimo, perché continua a generare miliardi di fatturato in tutto il mondo, quindi sicuramente è un brand, grazie a Dio, che continua nonostante gli anni a espandersi nel mondo. Sì. Che cosa consiste questo marketing globale? Ma marketing globale forse è una parola sbagliata. Io quello che ho detto e che probabilmente intendo in questa intervista è che praticamente la TV è un mezzo, ma poi anche portare a casa, non so, lo zainetto, il diario del personaggio, piuttosto che giocare con il videogioco o leggere i libri di questi personaggi, fa sì che tutto amplifica la notorietà e la diffusione dei contenuti. E le mamme sono contente delle Winx, secondo lei? Non so, penso 50-50. Penso che adesso siano quelle più a favore che contro, perché poi c'è stato, soprattutto all'inizio, ecco, questa polemica sul look, su questo che l'altro, che non hanno capito che l'importante è il messaggio e chi lo porta. E no? Quindi adesso invece si è rovesciata un po' la cosa. Ma adesso credo che diciamo si sono rese conto che le Winx sono dei modelli molto positivi molto per positivo. Le bambine, perché raccontano storie e insegnano come rispettare l'ambiente, rispettare i più deboli, gli altri, la diversità. Senta, tutto il mondo Winx, dalle serie TV ai film, ai giocattoli, agli abiti, ai libri, sono prodotti dalle sue aziende tra le colline, tra Loreto e Recanati, è così, no? No, noi diamo la licenza. Cioè, quindi ci sono... Producete in licenza? Noi non produciamo nulla, noi diamo una licenza e controlliamo con la Style Guide che vengano fatte a norma le cose, però i giocattoli li fanno i grandi giocattolai, figurine, la panina. Ma e con voi quanti lavorano? Con noi lavorano in Italia circa 300 persone. 300 poi persone. Ne abbiamo altri 600 in Canada. Di età media, giovani oppure senza differenza? Molto giovani. Sì, sono 30 anni l'età media. Ma è vero che il colore predominante della sua azienda è il fucsia? No, è il non colore è predominante delle Winx, ma non è... E perché il fucsia? È il fucsia perché comunque da ricerche che abbiamo, che dicano le femministe o altro, le bambine proprio appena aprono gli occhi, se li metti davanti il blu e il rosa, scelgono il rosa. Quindi non l'ha scelto nessuno, è naturale. Una scelta naturale. È assolutamente naturale. Poi che sia un condizionamento ancestrale, però comunque è un dato di fatto. È provato scientificamente questo. Quindi, lei ha detto gli stipendi qui da me sono dignitosi senza scialare, ma ogni dipendente ogni mattina può riscrivere il suo contratto di lavoro, addirittura mi sembra tanto. Intanto dignitosi, io spero che siano un po' più che dignitosi, sicuramente non sono esagerati, ma sono stipendi. Ma è vero che ognuno riscrive il suo contratto? Ma questo forse vuol dire che il merito conta tantissimo, cioè che il merito viene riconosciuto, cioè, e premiato, insomma, premiato, cioè. Ma chi è bravo va avanti, diciamo. E fa un esempio di uno che l'ha sorpreso, che ha avuto... Beh, ce l'abbiamo uno proprio eclatante. Noi avevamo una ragazza ventenne, poco più ventenne, alla reception. E questa ragazza adesso è dirigente di un settore, quindi sono passati... Cioè, ha scoperto un genio che aveva un talento. Dieci anni. Ma questo è l'esempio più clamoroso che mi piace citare, raccontare. Ma ce ne sono tantissimi che sono cresciuti da chi... E li riconosce lei? Le piace riconoscere i talenti oppure sono i suoi collaboratori? Più io, però anche i miei collaboratori, quando adesso l'azienda è cresciuta, insomma, però sicuramente qualcosina... Cioè, le piace riconoscere il talento? Mi piace perché non è che ci vuole tanto, quando uno porta risultati si vede, si capisce, subito. C'ha voglia di lavorare. Senta, lei ha creato anche un'accademia, una scuola di formazione che insegna cosa esattamente? Insegna ad essere dei professionisti veri dell'animazione e degli effetti speciali. Senta, ma chi esce dall'accademia trova un lavoro, da Rainbow? Subito? Subito. Noi cerchiamo di prendere i migliori, ma alcune volte ce li prendono anche Londra. Ma effetti speciali, c'è qualche italiano grande che le ha suggerito qualcosa sugli effetti speciali, no? Ma io ho Rambaldi, avuto il piacere, bravissimo. Io ho avuto il piacere di collaborare con Rambaldi proprio agli albori della Rainbow. Lui collaborò alla serie Tommy Oscar. Senta, lei ha ricreato un mondo perfetto, il mondo delle Wings lì, è così, cioè, le colline marchigiane lì, insomma, c'è un'ispirazione anche climatica? Beh, intanto abbiamo una sede molto interessante dove la possibilità di lavorare con la giusta luce, atmosfera... Rende più facile, come dire, alimentare la creatività, poi dopo il resto lo fa il paesaggio. Senta, ho letto che per far ondeggiare ad esempio la chioma di una delle sue fatine ci vogliono 400 animatori, 6 mesi di lavoro, 12 milioni di euro, vero? No, questo è per fare un film, magari tutto il film. Ah, tutto il film, no, una piccola, ok. E quanto le è costato l'ultimo film delle Wings? Ma quell'ultimo film è costato anche poco, relativamente poco, perché... c'era molto da prendere, diciamo, di materiale con tante avete serie. Usato molto repertorio, insomma. Ma abbiamo rifatto l'animazione, la storia, però poi se uno non deve rifare i castelli, non deve rifare... E quanto avete incassato? A livello mondiale, una ventina di milioni circa. Quanto pesa il merchandising? Il merchandising pesa moltissimo. Ma la parte più difficile del processo di animazione qual è? Ma la parte per assurdo è inventarsi una nuova storia, una nuova storia forte. Perché poi la tecnica è quella, insomma. Quindi i sceneggiatori contano tanto. I sceneggiatori, anche l'idea iniziale di chi sono i personaggi. Chi sono i personaggi, Ma è vero che suo padre, quando lei era giovane, aveva paura che lei finisse male tra fumo, droghe, donne, non lo so perché. Intanto... fumo e alcol, altre cose, droghe, eccetera, zero. Proprio tutte cazzate. Quello che mio padre aveva paura, che come tutti i genitori, quando uno è un teenager, dicono con quello che si sente in giro. Hanno paura generalmente. E quindi lui diciamo che forse lei ha trovato una frase che io ho detto in una delle mie interviste, che mio padre una volta mi ha dato un forte stimolo dicendo: io ho paura... per lui, che è sempre così amicone di tutti, e quindi potrebbe... Che si faccia influenzare anche male, in quel invece, senso. Per esempio, la sorella è una molto più sicura delle sue cose e non mi preoccupa. Questa cosa mi diede fastidio. E gli ha dimostrato che non era vero. La sorella che fa? Architetto. Brava? Sì. Lavora con lei? No. C'è uno studio a Roma. Senta, lo scorso anno la Rainbow ha lanciato un'altra grande produzione, Regal Academy. In onda su Rai Yo-Yo, un'accademia fondata dai grandi eroi delle favole del passato che formano giovani eroi. Ecco, da dove nasce questa idea? Un'idea di legare giovani e vecchi? Da quello che abbiamo detto prima, no? Siccome si parlava tanto di rottamazione, allora abbiamo detto rottamiamo le vecchie favole in cui parte gli scherzi, insomma, però... Questo mi fa ridere, mi faccia dire due parole adesso. Dica. A volte si legge, no? Che la Disney ha rottamato la vecchia favola in cui la principessa subiva con Brave, per esempio, no? E quindi invece vuole scegliere il proprio principe azzurro, artefice del proprio destino. Noi queste cose le abbiamo fatte già col film numero uno delle Wings, con le cartoni lo facciamo continuamente, diamo questa idea della donna che non è più quella che sta lì a aspettare a casa, cucire eccetera, mentre arriva il figo, lui il principe azzurro che non è questa tutto, la storia, insomma. Non è questa la storia, l'abbiamo scritta da tempo, e con le favole, scherzando, ci sembrava carino ricreare questa situazione in cui che si recuperavano i nipoti che non i vogliono nonni. Seguire a volte le semirealtà, hanno le stesse capacità dei loro famosi antenati, nonni, sì. Però poi devono saperle mettere a frutto, capito? Certo. Insomma, un cartone animato contro la rottamazione, possiamo dire. Ma sì, contro la rottamazione, perché comunque l'insegnamento dei vecchi nonni è importante per i giovani. Senta, ma la realtà e il contesto possono essere di ispirazione per voi creativi, se è di lì che poi certo, si parte, no? Sicuramente sì. Cioè lo deve essere in qualche modo. Per me lo è tantissimo, ecco. Io parto sempre da quello che vedo e che mi colpisce. Che la colpisce, senta, cioè, dagli input lei agli sceneggiatori? Spesso, direi di sì, per le cose che produciamo noi, che non acquisiamo i diritti da altri, sì. Senta, in America è stata lanciata la prima bambola trans, ispirata a una ragazza di 16 anni che è stata la prima a dichiararsi transgender. Ha partecipato a un reality in cui si raccontava la sua vita di bambina in un corpo di maschio. Le sembra una cosa che potrebbe fare anche lei o no? Assolutamente no, non mi interessa. Non interessa, no. Ecco. Perché? Ma perché penso che ci sia molto altro di più interessante da raccontare ai bambini. Anzi, addirittura credo che si sia perso un po' il gusto di certi temi classici che sarebbero ancora importanti. Che sono sempre importanti. Ma l'America di Trump le piace, eh? Ma io ancora non ci sono manco andato. Da quindi ancora non ha un'idea. Non lo so, sicuramente qualcosa cambierà. Senta, ma le Wings sono democratiche o repubblicane? Come sopra, cioè le Wings non sono di nessun partito. Ma Trump potrebbe essere un personaggio da fumetto, secondo sì, lei? Sì, molto. È proprio perfetto. E Melania anche. Beh, lei pure, sicuramente. Ancora di più, è una Wings. Se vogliamo. Una Wings naturale, Melania. Esatto. Lei è una figlia che si chiama Isotta. Da dove viene questa scelta? Tristano Isotta, d'accordo? Anche. Prima intanto dal fatto che nella mia famiglia c'è tradizione di non mettere nomi comuni. Isotta, certo, e originale. Quindi, esatto. Infatti lei si chiama Igino. Come mai Igino? Perché aveva uno zio che ha fatto fortuna in America e ha portato ricchezza a tutta la famiglia. Ah, quindi lo zio ricco, vedi che magari... Mio padre aveva fatto quel conto. Ha contato bene però. Diciamo che mio padre era affezionato a questo zio, a prescindere, perché è morto quando io era ancora bambino, gli raccontava le storie dell'America durante gli anni 20, un'America insomma abbastanza rampante. Che nasceva, esatto. Quindi era affascinato da questi racconti e quindi amava questo zio. Poi e Isotta? Ama con le Wings, gioca con le Wings? Sì, ti piace? Già ha cominciato a giocare. Intanto non si può dire di no, in ogni caso, siamo d'accordo. Senta Straffi, lei è un imprenditore molto atipico, perché non frequenta la Confindustria, non frequenta il giro dei salotti bene, è una scelta la sua? Ma scelta anche, a parte che mi sembrano salotti a volte inutili, però è più che altro una necessità, perché io sono sempre in giro per il mondo, dato che, come si dice dalle mie parti, non ti porta niente nessuno, devi andarlo a cercare. Lei ha detto, però ho letto, che quando incontra gli Elkano, i Benetton, sono attratti dal giovane self-made man come se uscisse da un film di Frank Capra, cioè per loro il nome è un peso, quindi lei è più libero poi in definitiva, il fatto di essersi fatti da solo è più difficile magari, ma poi dà anche delle libertà in più. Sicuramente. È così, no? Certo. Una specie di Peter Pan dell'industria italiana. Carina questa. Mi piace? Va bene. Mi piace anche perché sono affetto dalla sindrome di Peter Pan. Ah, fantastico. Quindi, certo, un figlio a 50 anni è un segno di questa sindrome. Che cosa deve avere un imprenditore per avere successo, secondo lei? Secondo me, prima di tutto, ci vuole una grande forza a non scoraggiarsi, perché quando uno inizia un'impresa c'è sempre dietro l'angolo la difficoltà enorme che ti si trova. Certo. E poi anche capacità di problem solving, quello lì è fondamentale. Se posso dire un'ultima cosa, perché è quello che dico sempre ai miei, bisogna nel lavoro, nella pianificazione, avere un piano A, piano B e un piano C. Almeno fino al piano C bisogna almeno arrivare. Fino al piano C, perché giusto. Il piano A. Perché non si perde mai così. Esatto. Ce la si fa in qualche modo. Bravissimo. Ecco. Lei come imprenditore ha avuto una cosa in più, appunto un piano A, penso. Cioè sua moglie, abbiamo detto, cinese, prima assunta come capo marketing, dopo qualche anno l'ha sposata, lavora ancora con lei? Sì. E che cosa fa? Di cosa si occupa? Sempre marketing e tutto quello che riguarda un po' la cinese, la conquista di un mercato, mi pare. Ma, si è portato avanti col lavoro. Con i mercati, speriamo che sia utile nell'espansione cinese della Rembo, adesso, dato che lei parla benissimo la lingua. È bello, credo. Senta, ma è un bene o un male lavorare con la propria moglie? Tutte e due. Ci sono anche problemi? Certamente, quando si allargano. Grossi? Ma grossi, insomma. Ci si porta tutto addosso, sempre? Sì, bravo. Si porta tutto addosso, che a volte è anche un vantaggio, perché quando uno ha veramente delle grossi problemi o situazioni importanti si condividono, la moglie che non lavora si non scoccia pure a sentire anche, questo, ma che vuole. Invece chi capisce perfettamente l'importanza di un momento può aiutare, può condividere. Può aiutare. Poi però chiaramente... è anche sempre quella roba lì. È un collaboratore che non ascolta una cosa di cui si è abbastanza sicuri, no? Che deve essere in quel modo. Gli si dice: si fa così e basta, la moglie te la porti a casa ancora. Dice: no, non è vero, vediamo. La dialettica continua oltre. Ma lei ci crede nel capitalismo familiare o no? Ma penso che l'Italia e la Germania soprattutto sono l'esempio vivente che il capitalismo portano avanti un paese. Quindi Isotta arriverà alla Rembo prima o dopo? Non lo so questo, perché comunque non è facile che i figli degli imprenditori possano portare avanti imprese un pochettino complicate come la nostra, perché noi non siamo in un settore tipico dell'Italia. Certo, è molto speciale. E quindi è un po' più difficile. La farà girare un po' per il mondo prima. Senta, ma che lingua parlate in casa? Inglese. Inglese, in azienda anche? Ma no, in azienda chiaramente italiano. L'inglese quando serve, l'italiano. Certo. Senta, da poco lei ha acquistato una grande società di animazione canadese, la Bardel. Una realtà con oltre 30 anni di storia. Ecco, sta pensando un network globale, quindi, sull'acquisizione per costruire un network globale. Sì, stiamo cercando di allargare le nostre capacità. Ma sempre nell'animazione oppure anche un salto nella fiction? Anche nella fiction. Sì. Ci saranno novità presto. Ah sì? Ah, state acquisendo qualche società di fiction? Forse. Forse, mamma mia. Ah, una novità. Senta, una società quindi che produrrà sempre più contenuti globali di ogni genere. Sì. Ah. Ma chi è il suo più grande competitor oggi? Oggi? Sì. Quello che ha nominato prima. Walt Disney. Cioè. Vabbè, lui, ok. C'è lei e lui, insomma, siete in due. Non è che siamo in due, però sicuramente siamo nello stesso settore. Beh, certo, infatti lui cinema, fiction, accidenti. Ma soprattutto diciamo che nel settore, per esempio, delle bambine, non è che ci siano altri grandi concorrenti. Fatto lì avete aperto un mercato, cioè inventato una cosa reale, insomma, che non c'era. Senta, ma Sanremo l'ha visto? A pezzetti così. Ma gli è piaciuto? Ma quello che ho visto mi è sembrato di dire un'edizione. Sì. Senta, ma lei è un uomo di contenuti, cosa guarda in televisione, se guarda qualcosa? Guardavo moltissima televisione. Sì. Sì. Fino a quando ho cominciato ad avere poco tempo, e soprattutto una figlia che monopolizza. Che sceglie lei che cosa guardare in televisione. Esatto, monopolizza il tempo. Quindi. Senta, ma un altro progetto sul quale sta lavorando si chiama Magia Bianca, Fashion Friends. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'accademia che abbiamo immaginato a Milano, un'accademia di talenti che vogliono diventare designer o comunque lavorare nel settore della moda, che vengono da tutto il mondo, quindi un clash culturale. Senta, ma pensare invece che sempre moda, spettacolo, eccetera, come modelli, pensare dei modelli diversi, una scienziata, una matematica come protagonista, cioè un mondo, in fondo la concorrenza oggi nel mondo è sui saperi e sulla conoscenza, quindi, come dire, stimolare al bello del sapere e della conoscenza può essere anche un servizio. Certo, però diciamo che io mi sono sempre un po' basato sulla forza dell'Italia, e quindi per esempio far vedere Milano, Roma, al mondo, perché sì, noi diciamo certo, poi avviene in tutto il mondo, non è banale. No, per e niente. E quindi un'accademia della moda, che è sicuramente certo, una grande sicuramente. Forza dell'Italia. Non c'è dubbio. Sì. Non l'aveva mai fatto nessuno sì. e l'abbiamo cercato di far noi. Senta, ho letto che oltre a essere credente, lei ha detto che questo Papa le piace come capo azienda, cioè? Ma forse capo azienda proprio non l'ho detto. Ho detto che è un Papa che sta facendo un marketing diverso della Chiesa. Una cioè vende il brand della Chiesa in un modo moderno? Lo vende meglio, esatto. Senta, ma è vero che dai fumetti adesso si sta spostando al gelato? Gelato, già una grande passione e soffro girando molto il mondo. Che non riesce a mangiarne quelle buone. Quello buono, esatto. Ah sì, lei esatto. ha una passione per il gelato straordinaria. Sì, tante altre passioni, però quella del gelato è una di quelle che... Le altre, qualcuna delle altre? Ma l'arte, per esempio, il cinema, chiaramente. Senta, una delle frasi celebri di Walt Disney, questa è l'ultima domanda, è se puoi sognarlo, puoi farlo. Quindi adesso sogna gelati. Sogno anche altre cose ancora nel nostro settore, però come passatempo passa dal gelato insomma ma è un tentativo di fare qualcosa in un settore diverso prima di farlo proprio, non solo di mangiarli, proprio vuol fare il gelataio anche. Voglio fare gelato un pochettino più insomma una delle caffetterie vere col gelato buono italiano che magari lo trovi a Shanghai piuttosto che a New York, insomma. Bene. Quindi la fiction, il gelato, il cinema. Abbiamo aperto molti fronti. Prima dobbiamo fare il film live action hollywoodiano delle Winx, abbiamo un sacco di altre cose importanti. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24. Vabbè, una bella storia che fa bene al cuore, una storia imprenditoriale. Bravissimo. È un madman di grandissimo talento. C'ho bene. Una notizia. Bravo, in merito. Di? Su... Di pure, su Strafi. Sì. Di. E le Winx si sono fidanzate tutte insieme con Ayace, il cane di D'Alema. Sì, vabbè. No, davvero. Cane è arrivato Lema, lui. Ma che gli frega al cane di D'Alema? No, che gli frega le Winx, soprattutto. Scusami, francamente. No, Ayace c'è il fatto suo. Sì, vabbè, Ayace. Va bene. Senti, no, adesso è diventato d'alemiano, no? Visto che D'Alema è contro Renzi, lui è diventato d'alemiano. Però era bello caustico. Sì, ho visto un paio di interventi di D'Alema. E poi parla latino. Chi parla latino? Ayace. Ayace è greco. Ayace è greco. Certo. E D'Alema? Cammina con Rocci tra le zanne. Che ci fa ascoltare? Arriva! The club isn't the best place to find the lovers, of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. E un poco carica, un poco sfinita, Giunone oggi chiamava sé la vita per prenderla a pugni ed era un 1-2 rispetto a tutti i suoi ruoli, quello di madre, quella di moglie, quella di figlia, quello di sorella, mai amica, piuttosto innamorata, vendicatrice della giovinezza trasfigurata in ogni rabbiosa malinconia. Ha chiamato appunto Giunone. Ha chiesto questo brano per se stessa con una dedica. Nulla è senza scopo, neppure l'ombra all'ombra di tutte le luci. Io ne capisco una su cinque delle dediche di Pietrangelo. È semplice, Giunone, poveretta, è costretta a fare la madre, la figlia, la sorella, l'amica. Quella è la cosa che è importante. Tutto un messaggio in codice. Insomma, dato che non ho la chiave del codice, manco io. Non c'ho. Fai come Ayace. Il mistero enigma. Rocci tra le zanne. Va bene. Così. Ok, vai Mario, fatto bolla. Peace and rest. non so se va bene per le ore 9:37 del mattino questa, però va bene. Ah, adesso ogni musica la commentiamo in base all'orario, sì, mi sembra una buona cosa. La fase migliore è la fase di Vanetto, come tu ben sai. Certo, la fase naturale di Vanetto scatta, diciamo, dipende alle poi 18. Da quando sorge, tramonta il sole, ma dopo le 18 nella fase invernale, quella è fase di Vanetto. Intanto... La fase mattina è la fase lenzuolo, insomma è un po' diverso, il risveglio lento, tutte queste cose qua. Non te devo spiegare niente, Minoli, tu son cose che tu conosci benissimo. Certo. Ma vorrei sapere la tua bolla. Allora, la mia bolla è molto semplice. Si fanno i conti della scissione, perché qualche conto andrà pur fatto, cari amici della regia. Non è che mettete la musica, ci riprendete per fare la diretta su Facebook, mannaggia voi, e finisce così. No, bisogna fare il conto. Allora, quanto costa la scissione? Parliamo del PD? Beh, certo. Si scindono solo quelli, gli altri non esistono più o meno, quindi come partiti intendo. E beh, bisogna prendere il bilancio del PD del 2015. Andiamo subito al sodo, vediamo le cose che contano. Proventi della gestione caratteristica. Sì. Ci sono circa 22.287.817 euro. Da dove vengono? Quote associative, rimborsi per le spese elettorali, il 2 per 1000 dell'IRPEF, le contribuzioni da persone fisiche. Ora, se si fa la scissione, è chiaro che le quote associative diminuiscono. È molto probabile. I rimborsi per le spese elettorali pure, perché sarà difficile con un partito scisso fare un risultato migliore di quello precedente, no? Certo. E quindi il rimborso, voi sapete, va di conseguenza. E il 2 per 1000 dell'IRPEF, anche questo si presume che in qualche maniera poi no, si faccia la scissione pure quello. Qualche simpatizzante dà i soldi agli scissionisti, qualche altro no. Sosterrà il partito, forse no. Quindi, insomma. E poi ci sono le contribuzioni da persone fisiche che contano parecchio, vi assicuro. Vabbè, ma poi soprattutto sono quasi 10 milioni di euro. Soprattutto c'è il patrimonio del vecchio PC. E poi c'è una cosa lì sospesa, di cui non si può per il momento dire quale sarà la fine, che è l'eredità del vecchio PC. Infatti, che... io sto provando a convincere Sposetti a venire raccontare. Bisogna farlo venire qua, assolutamente. Sposetti, personaggione, è troppo saggio per venire. Personaggione molto molto bravo, ha messo al sicuro il patrimonio dell'ex PC con una serie di fondazioni, e quello che sta accadendo dimostra che è stata una scelta saggia, perché altrimenti avremmo già visto di tutto, e soprattutto è stato quello che ha amministrato con grande maestria il debito monster che aveva il vecchio PC e lo ha diluito nel corso del tempo. Come vedete, la partita politica sotto si incrocia con quella economica. Salamino. Elezioni. Le elezioni che non si faranno per il governo di Roma si faranno per il governo dell'isola più vasta e più vastasa. La Sardegna. A quale Sardegna? Le virtù mai sufficientemente celebrate di Matteo Renzi, leader che tutto il mondo ci invidia, potranno dunque confermare ogni nobilitate in Sicilia, la terra che dà i natali ai vertici delle istituzioni, niente meno che il Quirinale e niente meno che la presidenza del Senato e, scusate se poco, niente meno la Farnesina. Però che torni la tarantella. Ma chi, Angelino? Oh, certo, perché c'aveva Angelino, Grasso, Mattarella, tutto in piedi. Il Kissinger di Agrigento. Kissinger no, è del Raffadale. A tarantella tornavo? Perfetto. Oh, le qualità momentaneamente frenate di Matteo Renzi, innamorato dell'isola di fichi d'India, Stigliola, Calcagnolo, Musso, Panelle, Sfincioni, al punto di andarci nell'ultima settimana del referendum ben 4 volte, troveranno felice prova alle regionali. E così faranno dimenticare le percentuali del no che toccarono punte, Giovanni, del 90%, o quantomeno spiegarle perché i siciliani che votavano no per dire no, non toccateci Matteo. Le elezioni che comunque non ci saranno a Roma, ci saranno in Palermo. E il governatore uscente Rosario Crocetta, inspiegabilmente arrivato ultimo nella classifica autorevolissima di questo giornale Sole 24 Ore, ultimo. È arrivato ultimo fanalino di coda, ingiustamente considerato tale dalla classifica del Sole 24 Ore, si presenta ancora una volta. Sarino, sempre presente alle Leopolde di Matteo, custodito sotto l'ala protettiva di Matteo, chiede il bis incurante di fischi e piriti, laddove quest'ultimi vanno considerati quali pernacchi, non flatulenze, né tampoco pennacchi. Il Movimento 5 Stelle è già dato nei sondaggi al 40%, ma è il solito equivoco. Si guarda alle stelle per cercare finalmente la cometa Crocetta. E cosa ne pensano Ficarra e Pecone? La famosa terrazza di Montalbano, sì, quella dove lui si affaccia e vede il mare. Lo splendido mare di Sicilia, sì, dove non si vede neanche una trivella da lì, lo vorrei dire, non è che... Ora, pare che sarebbe d'obbligo abusiva. Però il governatore della Sicilia, Crocetta, immediatamente ha detto che quella terrazza è storia e quindi non si tocca. Bravo Crocetta, sì, è giusto. Bravo, però allora, diciamo, calcolando che sul MUS Crocetta aveva detto che era contro e poi è diventata a favore. Vabbè, è stato un caso. Che sulle trivelle era contro e poi è diventata a favore? Secondo me, entro fine maggio, compa, la terrazza la demolisce lui con la pala meccanica proprio. Vai con la bolla, Mario. Sì. Now when I was a little boy at the age of five. Bo Diddley, sì. Chi può stare? No, prima solo una premessa, siccome non ho visto niente sui giornali di questa roba qua, però noi lo diciamo perché insomma fa bene. I mercati globali sono al massimo dal 2015 nell'era Trump, così, giusto en passant. No, ma il giornale radio prima l'ha detto. Sì, no. Io parlo della famosa autorevolissima carta stampata. Il nostro giornale radio. Il nostro giornale radio è meglio, ma la grande autorevole è super. Vabbè, e detto questo, ieri c'è stato qualche ascoltatore che mi ha chiesto: ma com'è che vale $250,000 l'azione dell'impero di Warren Buffett? Perché quello è bravo. A parte che lui non le ha mai splittate, non le ha mai divise, per tutta una serie di questioni che adesso sarebbe molto lungo raccontare, però vi do la performance perché è interessantissima. $1,000 nel 1983, $10,000 nel 1992, $100,000 nel 2006 e oggi $250,000. Ecco, un'azione. Questo è il valore, è il valore. La progressione del valore. Cioè è un ragazzo da seguire, Buffett. ecco perché è il Remida di Wall Street. Canzoniere! Che fai? Ma cosa stai facendo? Ma presto! Preparati a servire gli avventori per bene! Perché il buon nome di una bottega dipende dalla buona maniera di quelli che vi servono. Padrone, per dirvi la verità, questo lavorare di buon'ora non è fatto per la mia salute. Eppure bisogna cominciare a lavorare a buon'ora, presto. Perché a buon'ora presto vengono quelli che hanno da farvi. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS per chi indovina e ci vuole chiamare. Viabilità. Mix 24. Marco Baldani è uno scalatore puro, l'autentica rivelazione di questo giro. Con lui abbiamo trovato l'uomo che ci mancava nelle grandi corse a tappe. E continua a scattare Pantani e Maglia Rosa. Ecco, il 14 febbraio del 2004 muore Marco Pantani, una grande icona del ciclismo moderno che aveva fatto sognare milioni di italiani vincendo nel giugno del 98 consecutivamente il Giro d'Italia e il Tour de France. Ma la sua morte è diventata un giallo che ancora oggi molti si chiedono cosa sia davvero successo quella notte di 13 anni fa in un residence di Rimini. Per i gialli della storia, dopo il giornale radio, racconteremo, ricostruendo la vicenda umana e sportiva di Pantani. Intanto abbiamo un vincitore, no, un vincitore, uno che si candida per essere vincitore, al nostro canzoniere Roberto da Milano. È un candidato vincente, Roberto? Penso di sì, spero di sì. Ah, dica. Credo di sì. La bottega del caffè di Carlo Goldoni. Giusto. Giusto, bravo. Che fa di bello, Roberto? Io faccio il pubblicitario. Pubblicitario? Ah, ma in ufficio o a casa? In questo momento non sono né in ufficio né a casa. In macchina? Nemmeno. No, non si può dire. No, vabbè, non importa. No, in un'atmosfera degna di Goldoni. Sospeso nell'aria, beato lui. Bravissimo. Grazie, auguri, buon lavoro, Roberto. Allora, Mario, c'è ancora una bolla? Ma io più che una bolla, aggiornamento, ti darei qualcosa? un aggiornamento che è di clima di questo tipo. Allora, l'incontro tra Trump e Netanyahu. E Netanyahu è andato con una svolta epocale. Enorme della politica estera americana e delle relazioni tra i due stati e del Medio Oriente, perché la soluzione famosa dei due stati, che in verità non mi pare abbia portato a niente di concreto, alla pace in Medio Oriente, no di sicuro, alla soluzione della causa palestinese, comunque l'amministrazione Trump ha detto: vabbè, cambiamo. Ne fate uno? Ne facciamo uno. È una posizione in realtà non nuova, perché se andiamo a vedere che cosa scrisse John Bolton qualche settimana fa, a novembre mi pare, sul Times di Londra, era una posizione che diceva: bisogna chiudere la politica dei due stati e provare altre vie. Bolton è stato ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU, è un personaggio importante diciamo. Vabbè, vediamo, della politica estera. Vediamo tu cosa ne cosa pensi? Innesca. Secondo me hanno fatto bene. Ma io sono per la politica dei due stati, però può darsi che sia un riflesso condizionato. Pietrangelo non ha opinioni, non può parlare perché l'arrestano appena esce. Potrebbe essere in realtà una mossa che fa fare la svolta. Vabbè, vedremo. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, febbraio 2017. Medici donne e risultati. Che ci siano disparità nel trattamento tra uomini e donne è storia antica, da qui pari opportunità, ministeri e quant'altro. Ma una cosa è certa, che perlomeno nelle posizioni accademiche degli Stati Uniti, che sono un posto dove non c'è il salario uguale per tutti, ma è sempre un salario figlio delle logiche di mercato, comunque il salario delle donne è inferiore a quello degli uomini, così come i full professor, cioè i professori ordinari, sono l'11% donne, il 30% uomini. Questo viene giustificato in vari modi: che le donne hanno famiglia, quindi hanno meno tempo, che si devono occupare dei figli e quindi ancora meno tempo, eccetera. Però poi, e questo non è paradossale per nulla, per i motivi che poi andremo a dirvi, quando si va nella pratica clinica, cioè è meglio una donna medico o un uomo medico? Beh, in questo studio che pubblica JAMA Internal Medicine si vede chiaramente che le donne sono più brave degli uomini. Le donne interniste in questo caso, non sono altre categorie, cioè le donne che fanno medicina generale, perché hanno una minor percentuale di riammissioni ospedaliere nei pazienti che hanno curato, e varie condizioni mediche, dalle aritmie alle infezioni, sono meglio trattate dalle donne. Perché? Ma i ricercatori danno delle spiegazioni che mi sembrano condivisibili. Le donne hanno una maggior capacità di comunicazione. Infatti spendono più tempo degli uomini con il paziente, e questo, come sappiamo, è alla base dei segreti del successo di tante discipline come l'omeopatia, dove praticamente non c'è terapia vera, ma c'è un buon rapporto, spesso è un lungo rapporto, tra medico e paziente. E anche le donne sono più incoraggianti, più rassicuranti. Questo è un pezzo della terapia. E per chiudere, Gloria Guerrera,